Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, la state ascoltando e la state vedendo. Parliamo della nostra diretta e parliamo dei primi ospiti che ci hanno raggiunti qui a Risto Radio Convento, live dal convento di Lonato del Garda, più pieno che mai, potete confermarlo che ci si muove a fatica. Come sapete, Risto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare, e diciamo che, mi perdonerete, penso al momento di essere tra gli uomini più invidiati d'Italia. Credo così, vedendo le facce di quelli fuori, credo che ci sia un po' di invidia nei miei confronti. Perché? Perché la radio è popolata in questo momento da 5 bellissime ragazze, ma senza nulla togliere a loro, anche quelle fuori, diciamo che sono rimaste fuori, ma sono altrettanto belle. Soprattutto però è il momento di andare a conoscere la vera protagonista di questa serata, la nostra festeggiata, la nostra sposa, a cui diamo il benvenuto. Si dà il benvenuto con un bello, mi piace. Allora, come ti chiami? Alessandra, ciao. Da dove vieni? Pugnago del Garda, quindi avrete capito, per tutti quelli che ci stanno ascoltando da Sorrento, Catania e dintorni, che sono di Brescia. Che è di Brescia, però il suffisso del Garda, diciamo che può localizzare anche facilmente la tua provenienza. Allora, Alessandra, dici un po' che cosa ti porta qui al convento questa sera. La mia testimone. La tua testimone, Lara, diciamolo subito per i fanatici, ecco, del web, delle webcam, la state vedendo vestita di blu. Quindi diciamo che è facilmente. Sì, no, lui è sempre così. L'hanno già a 7-8 denunce. E stasera ha deciso di guadagnarne un'altra. Perché sai com'è, no? Sai che ci sono alcuni che collezionano i biglietti dei treni, no? Lui colleziona denunce, le attacca proprio in camera sui quadri. Sì, brava, tipo i francobolli. Invece di numismatica è denunciatica. La chiamano così, è un po' una malattia. Ma non fateci caso. Ti ha portato la testimone Lara, come mai? L'hai capito? È tipo quasi l'una di notte, hai capito come mai sei qui? Sì, per il mio addio nubilato. Oh, per addio nubilato, applauso, partecipato, volontario. Bello. Allora, tuo addio nubilato, chi è il tuo futuro sposo e quando vi sposerete? Kevin, il 25 maggio. 25 maggio, che vi dico, io faccio sempre un mini sondaggio sociale che rimane tra me e me, ne parlo da solo. 25 maggio, data quotatissima. Cioè, stasera almeno una ventina ne ho sentite che si festeggiano il 25 maggio, infatti, chissà perché. Anche l'agosto, l'anno scorso sono già tutti. Infatti, saranno tutti contenti. Io festeggio a casa. Ma tu lo festeggi a casa, come mai? Non è vero, padre. Mi sembrava un po' unconventional, mi piaceva questa tua voglia di rompere un po' gli schemi. No, invece no. Vuoi dire dove lo festeggerai? Vuoi fare pubblicità occulta? Magari ti fa lo sconticino del 10. Alle trote. A sopra zocco. Va bene. Che puoi chiedere lo sconto se vuoi, visto che li hai citati. Chiedo lo sconto, No, non è chi vuole essere milionario e chiedi l'aiuto da casa. Era più una proposta, tu l'hai fatta. Esatto, puoi chiedere. Beh, insomma, se chiedi l'aiuto da casa e risponde Lara, non so come vada a finire, Cosa dici? È affidabile? Te la fa passare il livello successivo o ti fa perdere tutto? Dipende. Oh, facciamo così, Lara, dove sei forte? In che argomento saresti forte? No, in un niente. Quindi non te deve chiamare. Nella birra. Ok. Se ha una domanda sulla birra. Domanda sulla birra, la Lara c'è. Anch'io, poi andiamo. Domanda sulla birra forte, bene. Qual è la tua birra preferita? Quella non sta se sia la spina in ogni bottiglia. Perfetto, una donna con gusto, si capisce subito, no? Come proprio per cercare la marca particolare. No. È bionda come me. Bionda come te. Bene. Allora, a proposito di Lara, che abbiamo già un po' conosciuto, che dice Alessandra? Facciamo anche una mini presentazione delle altre tue amiche, o non so se amiche. Però, chiamiamo in causa anche loro, chiaramente le salutiamo e si potranno salutare e risentire domani. Vai, parti tu, fai un po' la padrona di casa, dai. Sì, tu. Che devo dire? Loro, presenti. No. Allora, ormai anche le parole Lara le dice. Quali parole? Partiamo da quelle fuori. Parte da quelle fuori, giusto? Lei si chiama Alice, della mia collega. Ok, la intravedo. Lei si chiama Caroline, della mia vicina di casa. Bello, cioè la vicina, tu hai invitato la tua vicina di casa. Sì, siamo amiche. Ok, vi conoscevate già. No, era bello che durante il trasloco, durante il cambio di... Lei si è trasferita allo scoperto oggi, quindi non è più mia vicina di casa. Ah, niente, quindi... Quindi non l'avresti invitata altrimenti. No, infatti. L'avresti invitata comunque? No. Boh, non lo so. Quindi diciamo che le è andata bene. O forse si è trasferita nel momento in cui ha avuto la conferma della festa. Esatto. Ma che vada. Io sono tranquilla. Esatto. Poi c'è Silvia, detta anche Miss Ghepardo Leopardo, giusto? Non so, questo vestito che non si nota. Ah, tua ex collega. Bene. Allora, Alice, in realtà l'ho conosciuta stasera. Sono imbucata io. Davvero? Penso sia la cosa più bella del mondo. È amica di Giulia. È amica di Giulia, no, ok. Un po' anche lei tramite conoscenze. Ah, ok. Quindi no, cioè, era una perfetta estranea o almeno un viso conosciuto? No, dai, raga, no. Abbastanza, ok. E poi ne mancano alcune in realtà che sono già andate via. Sì. Per le mega scoriche e poi c'è lei. Che abbiamo già più o meno presentato. E Lara, tra l'altro dicevi testimone di nozze, giusto? Sì. Come mai la scelta è caduta su di lei? Cioè perché sei invidiosa? Ah, ok, no, pensavo fossi invidiosa del vestito blu e hai detto una che ha il vestito blu. Deve essere testimone di nozze, no? Eh certo. Per quale qual è il motivo dei rinnovi? Bene. Secondo me non lo sa neanche lei, non l'ha ancora capito. Ah, ok, la tua amica storica. Bene, bene, bene. Allora, e invece di Kevin che ci dici? Se ci vuoi dire qualcosa? Fammi una domanda, dai. Fammi una domanda, non che ne so. Posso parlare così a Struss? Tipo, Struss a Brescia. È tipo alle medie, alle superiori, tema libero. Sai quando ti davano il tema libero, no? Cazzo, o argomento a piacere. Kevin... Si chiama Kevin. Beh, partiamo dalle cose che sappiamo, dalle cose importanti. Ha 27 anni. Sì, non è. Idraulico. Non è che stiamo facendo un colloquio di lavoro, nel senso, me lo stai presentando come fosse un. È il percussionista. Fa il percussionista. Fa il percussionista, e stasera è al Dylan. Bene, cioè, per l'altro, stiamo facendo spot a chiunque. Cioè, non vi stiamo dite ancora andate al Dylan. Esatto, stiamo facendo pubblicità incredibili. Beh, ma d'altronde, l'Alessandra. No, va, non ti preoccupare. D'altronde è giusto perché l'Alessandra in qualche modo deve rientrare delle spese del matrimonio. Quindi esatto, è giusto fare il cosiddetto product placement, come dicono a Masterchef. Che tra l'altro ho detto Masterchef, quindi se voleste portarci, che ne so, un piatto di spaghetti, qualcosa del genere, noi gradiamo. Riso alle fave? No, che le fave, ho fame. Ah, hai fame. Allora ti dico, se hai fame, che a brevissimo arriverà la pasta. Grandissima. La pasta asciutta, quindi te la potrai godere. Quindi, ben detto, 27 anni percussionista e basta. Non c'è da aggiungere. Ah, è idraulico. E vi siete conosciuti a uno suo spettacolo, no? No, ci siamo conosciuti in rubriaca. Bene, direi che l'amore vince sempre su tutto, come si può dedurre da queste cose. Hai fatto, infatti io sono, apprezzo ovviamente la tua sincerità, però la grande domanda che il pubblico si sta facendo è: sei rimasto ubriaca finora? E quindi cioè, nel senso, sera. Se ti ha colpito lui quella sera ed eri ubriaca, poi ne sei uscita e quindi ti sei un po' rinsavita e ti è piaciuto lo stesso, o sei ubriaca perenne da lì perché no, ci cacchio no, no. appena sono ubriacata, ho vomitato e poi perfetto, direi che la storia sta sempre guadagnando contorni più romantici e più di qua. No, ma è bello così magari finalmente Kevin saprà la verità sulla sua storia d'amore e sui veri motivi per cui la nostra Alessandra è rimasta colpita da lui, perché dovete sapere che noi uomini, siamo sinceri, abbiamo sempre un po' quella paura di dire boh, cosa l'avrà colpita di me, cosa le sarà interessata, sarò stato bravo, interessante, ci facciamo 2500 paranoie e poi veniamo a sapere che in realtà tu non capivi nulla. Chiaramente consapevole che io no, tu non capivi nulla, quindi... ma lui lo sapeva, Ok, lui lo sapeva. Vabbè, è andata a finire bene, questo è quello che conta. Molto bene. Vuoi mandargli un messaggio, vuoi dirgli qualcosa? Ciao. Vuoi approfittare di un microfono no, per. No, mi vergogno, non credo che mi stia sentendo. Ti potrà sentire più avanti, quindi se vuoi dirgli qualcosa, se no vuoi dire qualcosa a loro, chi vuoi? Ma io vergogno un po', Non è obbligatorio, credevamo tanto, basta. Beh, hai detto poco. Bene, allora grazie mille, ti saluto anche lui, grazie mille ragazze per averla portata grazie qui grazie. E buona serata, buona festa, ciao, auguri a tutti. Alla nostra Alessandra, ciao ragazze! State ascoltando Ristoradio Convento.